It's a long road to 1600 Pennsylvania Avenue, and it runs right through the heart of Pennsylvania. È una lunga strada verso il 1600 di Pennsylvania Avenue e questa strada passa proprio attraverso il cuore della Pennsylvania. Il nuovo presidente dovrà essere pronto a prendere le redini del paese come comandante in capo e a far girare l'economia a vantaggio delle famiglie del ceto medio. Pennsylvania, ti ringrazio per aver deciso che io posso essere quel presidente.